fossi yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina la prenderò un po' alla larga perché c'è una notizia divertente che ci dà il fianco per l'argomento di cui vorremmo parlare oggi, che già conoscono gli amici su Facebook, che già da ieri ne dibattono in maniera animosa, ma non conosce chi ascolta solamente, ahimè per lui, la radio. Dunque, ieri le agenzie di stampa, o davanti il lancio dell'ANSA, ma anche altre agenzie, hanno dato una notizia che sembrava avere tutte le caratteristiche per riempire oggi le pagine dei giornali. Vuole diventare donna e farsi suora, è il titolo del lancio d'agenzia, e parla di un certo PD, mette soltanto le iniziali, che avrebbe rivelato che avrebbe deciso, confessato al suo sacerdote, al suo parroco, di voler cambiare sesso e andare in un convento e farsi suora. Questo è un aderente del centro sociale destra Casa Pound, parla al responsabile Casa Pound, dice: tutti gli uomini e le donne dovrebbero essere uguali, avere la stessa possibilità, anche chi passa da un campo all'altro. Quindi questo signore, questo ragazzo, ha deciso, simpatizzante di Casa Pound, di cambiare sesso e farsi suora. Naturalmente tutti erano pronti con la bava alla bocca di cercare l'intervista meravigliosa di questo signore di destra omosessuale che decide di confessa a un parco che il mese mariano, il mese di maggio, lui si farà suora, quindi c'era una storia bellissima, salvo che era uno scherzo del martedì grasso. Oggi Luca Telese sul giornale lo racconta per esteso, perché in realtà l'iniziale PD era Partito Democratico, questi ragazzi con una provocazione che lui chiama i fascio futuristi, sono un centro sociale di destra, hanno voluto con questo fare una divertente metafora del passaggio dal veltronismo al franceschinismo, con questa ardita metafora che però mette insieme una serie di luoghi dell'immaginario che sono molto calcati in questi giorni. Il passaggio di genere nella politica, cioè la difficoltà di concepire una polarizzazione certa tra destra e sinistra, il passaggio di genere nel segretario del più grande partito di opposizione, la difficoltà nel trovare una dimensione stretti tra etica e pensiero laico, etica religiosa, la omosessualità come argomento principe che ha trainato la più importante ricorrenza dell'anno liturgico televisivo, che è il Festival di Sanremo. Insomma, c'è tutta una serie di episodi che vale la pena di commentare. Io questa mattina li commento con l'amico e scrittore Walter Siti. Walter, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io ricordo brevemente chi sia Walter Siti. Walter Siti è stato professore universitario all'Università di L'Aquila, Pisa, Cosenza. È un critico letterario, ha studiato e scritto moltissimo su Pasolini, anzi forse mi sembra sei il più grande pasolinologo italiano, è giusto definirti così? Non lo so, lo ero semmai. Beh, perlomeno dicono questo, ancora sei vivo, quindi. Sì. Però di fondamentale negli ultimi anni ha scritto Troppi Paradisi, un libro bellissimo sulla televisione, anche qui su questa vena sottile, sotterranea, nascosta, mai detta e impronunciabile delle scelte sessuali non ortodosse dei grandi della televisione, che poi pur essendo palesi all'occhio devono essere nascoste nella loro affermazione. Il Contagio per Mondadori, un libro anche interessante sulle derive della gioventù, e poi ci dirà in che maniera, e alla fine stai scrivendo un altro libro che parla del corpo del diavolo. No, questo è un Il canto del diavolo, sì, è un libro di viaggi, questa piccola collana di viaggio che fa la Rizzoli, che si chiama Strangers, che hanno mandato un po' di scrittori in giro per il mondo a fare appunto dei resoconti di viaggio. Io sono andato a Dubai, negli Emirati Arabi, e a metà aprile uscirà appunto questo libretto che si intitola Il canto del diavolo. Allora, cominciando a far capire, a dare ragione perché tu sia qui, Dimmi innanzitutto cosa pensi di questa notizia che ti ho dato, dell'omosessuale che cambierà sesso e diventerà suora. Beh, la prima cosa naturalmente è che la vita imita l'arte, come succede molto spesso, e che soprattutto gli artisti non possono trovare, come dire, delle cose grottesche o buffe o strane che la vita non abbia già fatto. Perché mi veniva in mente che questa boutade, insomma, dei futuristi di destra, che in realtà era uno scherzo sul Partito Democratico, rispecchia in realtà una storia vera, che è quella di Joe Staiano. Chi ha la mia età se lo ricorda, che Joe Staiano, che veniva da una famiglia importante per l'appunto di destra, alla fine degli anni 50 scrisse un libro che fece molto scandalo, che si intitolava Roma Capovolta, partecipò alla Dolce Vita di Fellini nella scena famosa dell'Orgia, e io me lo ricordo, ero giovane all'epoca, appunto un omosessuale ancora molto incerto sulla sua strada, su cosa fare, quei momenti in cui un adolescente pensa di essere l'unico omosessuale al mondo, e su un settimanale, non ricordo esattamente quale, lui teneva una piccola rubrica fissa, c'era la sua faccia con i capelli ossigenati, eccetera, ed era uno dei primi che in Italia parlavano di omosessualità. In seguito poi ha cambiato sesso, è diventato donna, e ha avuto una specie di crisi mistica, di crisi religiosa, per cui negli ultimi tempi poi lo si è visto, non so se è diventato esattamente suora laica o qualcosa del genere, in un convento, mi sembra pugliese, perché lui è pugliese di origine, e quindi con i capelli tagliati molto corti, un po' da, diciamo, da clausura, e un grosso crocione al collo, che parlava appunto di Dio, eccetera. Comunque si è diventato suora, perlomeno nella volontà è diventato suora, sì, non credo, sì, che sia possibile nella realtà, infatti, non so, perché se... ho visto un documento della Congregazione della Fede che... documento interno che dice che non è possibile l'accesso a un ordine monastico se si proviene da un altro sesso. Queste sono, dunque, perché Walter Zitti questa mattina qua? Perché Walter Zitti, nella sua veste di analista da televisione, ha seguito il Festival di Sanremo, e all'indomani della nota polemica di cui noi abbiamo parlato riguardo alla canzone di Povia, al esorcismo riparatorio anticipatorio di Benigni, della replica di Grillini, di cui parlammo una settimana fa, che riprenderemo oggi, Walter Zitti si è sentito di scrivere una sua lettera aperta sul quotidiano La Stampa. Scusate, ma difendo Povia. La canzone è di una semplicità un po' ovvia, sia nella musica che nel testo. Ma diciamo che il testo è ortodossamente freudiano e che le idee freudiane, per molti di noi omosessuali sessantenni, ci hanno liberato proprio da quel mito romantico e decadente, alla Proust o anche alla Wilde, che vedeva l'omosessuale come l'appartenente a una razza esclusiva e separata, maledetta o sublime. Quel che mi preoccupa è che si compia un'indebita estrapolazione logica, che siccome l'omosessualità non è una nevrosi, si deduca che allora non possono o non devono esistere omosessuali nevrotici, e che dunque raccontarne la storia sia una menzogna, o peggio, un'offesa, o che l'omosessualità sia una condizione talmente perfetta e autosufficiente che non ci si possa transitare, per sboccare poi in un rapporto eterosessuale, o viceversa. Questo naturalmente è soltanto un estratto della lettera di Walter Zitti sulla Stampa, lettera che naturalmente ha suscitato una immediata reazione, un fronte organizzato, politicizzato, diciamo omogeneo e compatto di omosessuali politici hanno detto: ma no, questa lettera è terribile, ci ributta ancora indietro di centinaia di anni, ci condanna, è una lettera che fa molto male al pensiero omosessuale. Ma sentiamo un altro estratto e poi parliamo con Walter Zitti. Sarebbe triste, dopo aver passato gli anni 60 a vergognarci di essere omosessuali, che ora dovessimo vergognarci di essere omosessuali nevrotici, che dovessimo per forza recitare la felicità o la coniugalità normalizzata e fedele, che fossimo obbligati ad escludere dai nostri racconti, per essere politicamente corretti, tutte le ossessioni, i deliri padronali, i terrori infantili, che dovessimo considerare il passaggio all'eterosessualità come un tradimento. Ecco, naturalmente chi ci ascolta in questo momento, e spero che comincerà a intervenire chiamando l'800 24 0024, già comincerà a schiumare di rabbia. Ah, come difendete Povia? No, Povia ha fatto una povera canzoncina, niente di che, poverino. Canzoncina anche con intento molto furbetto, sapendo che avrebbe suscitato polemiche, se ne è parlato molto, con una eco che sovrasta di gran lunga il contenuto artistico della canzone, che pur restando comunque modesta, nella triade dei finalisti di Sanremo probabilmente era quella più orecchiabile, tanto che Carta, il vincitore, come dicevo prima appunto con Walter Zitti, ha seguito quello che è il naturale destino che gli dà, ahimè, l'onta di predestinazione che sempre dà un nome, Nomen Omen. Carta è finito nel cestino, Radio DJ Cestina Carta, una delle più importanti radio musicali italiane, ha detto: non manderemo per protesta la canzone di Carta, ma anche il terzo arrivato non mi sembrava di granché, quindi probabilmente tutti che si sono stracciati le vesti sul fatto che Pove sia arrivato in finale devono anche considerare il livello musicale. Walter, tu hai scritto questa lettera valutando che ti avrebbe creato qualche problema, qualche piccolo problema, senza entrare in polemica, l'ha provato, ho visto la lettera di Pezzana, insomma c'è stato un fronte che ti ha detto che dovevi evitare di fare questa considerazione. Ma io ero appunto a Sanremo, come tu dicevi, quel giorno, quel giovedì. E l'aria che ho sentito, insomma, arrivando era abbastanza brutta, nel senso che si parlava appunto di denunciare Povia per le parole della sua canzone. Poi la cosa della serata prima, quando appunto c'era stata la lettera di Oscar Wilde letta da Benigni, era come se, come dire, tutti sapessero dove stava la ragione e tutti fossero concordi nel dire che invece le parole di Povia erano offensive. Allora semplicemente ho voluto dire: proviamo a ragionare con calma su questa cosa, cioè non capivo perché fosse così certo tutto quanto, e soprattutto appunto mi dava e continua a darmi un po' fastidio il fatto che nell'ansia appunto di dichiarare che l'omosessualità non è una malattia e che l'omosessualità non è una nevrosi, è come se in qualche modo si dimenticasse che invece molte volte, in molti casi empirici, concreti, anche per il contesto in cui un omosessuale è costretto a vivere, l'omosessualità si accompagna effettivamente a, come dire, delle difficoltà, per esempio in ambito familiare, per esempio nel rapporto con le donne, che non si limita a un semplice disinteresse fisico, che sarebbe ovvio, ma per molti omosessuali invece il rapporto con la donna suscita reazioni, non so, per esempio di paura o di aggressività eccessiva o di voglia di parodiarla. Quindi, come dire, mi sembrava che in realtà, a dirti la verità, la cosa che io trovavo più offensiva di Povia, della serie di esibizioni di quel festival, è stato un cartello che lui ha esposto alla fine, non ricordo in quale serata, in cui diceva: la serenità vale più della felicità. Su questo invece non sono d'accordo. Beh, il cartello di Povia sarebbe da aprirci un altro argomento. Esattamente. Non so chi ha dato lui questo suggerimento terrificante del cartellone. Però se invece siamo d'accordo, come io per esempio credo, che la felicità è molto più importante della serenità, anche a spese della serenità, beh, allora io in qualche modo veramente anche nei confronti, diciamo, degli omosessuali militanti difendo la diversità. Cioè, scusa Walter, ma può essere che ci sia un pensiero unico difendibile con le baionette in mano e nessuno possa entrare a ragionare questo pensiero unico? Cioè non basta soltanto essere omosessuali per dire posso dire quello che voglio, bisogna essere anche omosessuali organizzati, sennò non si può dire. Ma organizzati, quello non lo so. Io adesso, a parte tutto, Pezzana ha ragione quando dice che se non ci fossero stati i movimenti appunto militanti a fine anni 60 eccetera eccetera, adesso non si avrebbe questa, insomma, diciamo, la situazione certamente migliore che gli omosessuali vivono adesso, quindi veramente tanto di cappello a questo. E probabilmente quando sei in prima linea a fare una cosa militante non hai tanto tempo appunto di ragionare con calma. Però proprio perché adesso credo che viviamo in un momento di riflusso abbastanza forte, dare in mano agli avversari dei buchi logici, e in fondo gli fai un piacere, perché è abbastanza facile poi smontare le tue argomentazioni se ci sono dei buchi logici. Quindi, per ragionare, per entrare più dentro al problema di come vogliamo trattarlo perlomeno noi, Sanremo, che in realtà non vale la pena, molti mi scrivono, sempre persone intelligenti, non parliamo di queste cose. No, ne parliamo perché bisogna avere anche la modestia di capire che la nostra pretesa di essere intellettualmente attivi non deve impedirci di guardare anche ciò che accade leggermente fuori mira rispetto ai nostri orizzonti di discussioni, di letture e via dicendo. Saremmo uno specchio molto fedele di alcuni meccanismi attraverso cui si crea il pensiero, si crea anche la cultura. Saremmo è una macchina strana. Saremmo nasce come una grande enfasi sul fatto che sarebbe stata questa canzone di Povia, quindi se la cosa è trapelata erano tutti d'accordo, chi lo ha scelto lo ha chiamato per parlare con un argomento del genere, una canzone, però si è organizzato un meccanismo difensivo così grottesco alla fine, con quella dichiarazione di Benigno, trovato grottesco, ma già l'ho detto, anche la contrapposizione dell'SMS dell'amico di Grillini e via dicendo, cose di cui adesso vi daremo qualche piccolo flash di ricordo, che non si capisce perché alla fine quello poteva essere uno spunto interessante di riflessione, si è risolto in un sistema così inattaccabile di pensiero per cui una lettera come la tua crea un così grande scandalo. Io trovo un po' curioso appunto che gli omosessuali li si debba presentare per forza come felici. Cioè sembra che quando parli di omosessuale ormai tu devi parlare sempre di coppie felici, di persone risolte, eccetera eccetera. Non succede nemmeno tra gli eterosessuali, quindi non si capisce perché dovrebbe succedere tra gli omosessuali, appunto, come dicevo prima. Ma la felicità assoluta è anche molto distante dalla condizione umana, diciamo. No, e soprattutto se appunto tu preferisci la felicità alla serenità, come credo che sia giusto, devi sapere che c'è una contropartita di infelicità quasi sicura e alternativa, no? Cioè è chiaro che alle vette di felicità, quando ci sono, corrisponde agli abissi di infelicità. Quindi credo che molti omosessuali siano infelici o abbiano passato dei periodi di forte infelicità, ma perché negarlo? Cioè? Vediamo allora di fare una contrapposizione che si giudicherà ardita, ma ci sentiamo di farla proprio perché stamattina in studio sta Walter Zitti. Cominciamo a sentire un attimo quella che era la canzone di Povia, che tutti conoscerete, però è importante perché al centro di questa canzone c'è un personaggio che è la madre. La madre sembra la scaturigine di tutte le problematiche che hanno portato l'amico Luca, conosciuto in treno, chi dice che sia un'esperienza autobiografica, chi dice che sia stata raccontata a qualcun altro, non ci interessa chi, non ci interessa la proiezione storica, ma ci interessa la centralità della madre. Mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni, ed io non respiravo per le sue attenzioni, mio padre non prendeva decisioni. Ed io non e vi facciamo sentire, immediatamente a seguire, un altro punto di vista, che è la famosa supplica di Pierpaolo Pasolini alla madre, letta da lui stesso. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame. Walter Zitti, studioso di Pasolini e testimone oculare della questione Povia al Festival di Sanremo. Sentire così accostate queste due letture, l'una drammatica e poetica e l'altra confezionata apposta per il pubblico di Sanremo, che impressione ti dà? No, beh, diciamo naturalmente subito che c'è una enorme differenza di livello, perché altrimenti poi mi accusano pure di paragonare Povia a Pasolini. No, non è un paragone, ho detto le contrappongo sì, sì, perché sono luoghi dell'immaginario e dell'esperienza toccati in entrambe le situazioni. Certamente, come dire, entrambe ripetono a distanza di molti anni un'ipotesi che poi è in fondo l'ipotesi, diciamo, formulata da Freud, cioè che l'omosessualità nasca da un eccessivo attaccamento alla madre, per cui si ha l'impressione che la madre sia l'unica donna esistente e ovviamente sacra, perché il corpo della madre è intoccabile, e che quindi poi questa intoccabilità si ripercuota sul corpo di tutte le altre donne e quindi, come dire, non è possibile avere rapporti sessuali. Allora ti dico, andando ancora oltre nella provocazione, se questo concetto è espresso poeticamente accettato e se è espresso banalmente invece diventa oggetto di polemica? No, io credo che insomma quelli, almeno quelli conseguenti, che fanno polemica su Povia giustamente farebbero polemica anche su questo contenuto di Pasolini. Perché credo che facciano polemica con Freud, probabilmente giustamente, cioè è probabile che Freud, appunto, che parlava nell'Ottocento viennese, avesse un'idea della famiglia talmente patriarcale, dove appunto il triangolo edipico era talmente forte che ha dato un'interpretazione di questo tipo, e può darsi benissimo che nella famiglia di adesso questa cosa non valga più. Quindi non è che io discuto questo, può essere che effettivamente la posizione di Freud fosse sbagliata e si dimostrasse sbagliata, come si è dimostrata molte volte sbagliata sulla sessualità femminile, per esempio dell'omosessualità femminile non capiva niente, eccetera. Dico solo che contrapporre a questo un'immagine appunto un po' stereotipata dell'omosessuale coniugalmente felice, eccetera, eccetera, finisce in fondo per essere quello un passo indietro, cioè per ristabilire questa idea che gli omosessuali vivono felici ma da sé e gli eterosessuali vivono, secondo loro, meno felici dall'altra parte, mentre mi sembra che la cosa interessante di questi anni sia proprio la permeabilità della membrana. Tanto per fare un esempio basso, visto che mi accusano sempre di fare esempi bassi, questo come si chiama, questa specie di commedia televisiva che è finita ieri sera, che si chiama Tutti pazzi per amore, raccontava una storia abbastanza curiosa, cioè di un signore che aveva sposato la protagonista, poi era diventato gay e in effetti viene rappresentata la coppia gay, eccetera. Nel momento in cui la protagonista è in crisi, riva a letto con la sua ex moglie e quindi c'è di nuovo un passaggio, diciamo, dall'omosessualità all'eterosessualità. Credo che effettivamente questo andirivieni sia forse la cosa più innovativa. Tu dici giustamente, questo condivido, che se viviamo nella società liquida, vediamo nella possibilità di adattarsi continuamente, di mutare continuamente, io dico nella mia lettura personale, di sovrascrivere continuamente le proprie convinzioni, non siede perché anche una convinzione, un modo d'essere profondo, non possa essere considerato come un'osmosi, almeno in certe fasi della sua vita. Assolutamente, sì. Grazie Walter Sitti. Melog 2.0. Quando ci si innamora si diventa uomini liberi. Allora ho sentito sta polemica sugli omosessuali, diciamo polemica, questo si è parlato delle canzoni, non so neanche la canzone, non so, ho seguito tutta questa storia. Allora diciamo, siccome è una storia quella degli omosessuali che è incredibile perché va avanti da millenni. Da millenni, gli omosessuali, lo dico con allegria, non sono fuori dal piano di Dio. È una cosa, non è che è un peccato, di peccati c'è solo la stupidità. Gli omosessuali ci hanno dato dei doni enormi, enormi, e io gli sono grato così come gli eterosessuali. La stessa, aspetta, no, non era un discorso. Dico, e allora voglio dire, per rendere l'idea, dico, di quello che, di cui stiamo parlando, l'assurdità. Mi sembra chiaro l'argomento, anche a chi non fosse stato in onda nella prima parte, questa in ascolto, in prima parte di questa trasmissione. Stiamo riprendendo a bocce ferme, come suol dirsi, la polemica nata dall'ultimo festival di Sanremo. Lo sapete, è ormai un fatto di cronaca accertato, una canzone annunciata già da mesi prima con a tema la storia di un ragazzo gay che si sgaglizza e si sposa, è felice, cantata dal cantante Povia, suscita una grande reazione forte nelle associazioni omosessuali, tanto che la sera del Festival di Sanremo l'organizzazione del festival si sente in diritto, in dovere di mettere in bocca al cantore dell'epica contemporanea per eccellenza, che è Roberto Benigni, questa difesa d'ufficio. I peccati non c'è che la stupidità, e quando diciamo non è proprio il sentimento dell'amore che caratterizza gli omosessuali, il piacere è un'altra cosa, ce l'abbiamo anche noi, ma l'amore, diciamo, e quando c'è l'amore tutto diventa grande, finisce la mediocrità. E allora non è la fede, nemmeno la fede rassicura, solo l'amore più della fede. E io in questo senso vi volevo leggere una lettera indirizzata a tutti noi da una persona che amava un'altra persona del suo sesso adulto, un ragazzo di 20-21 anni, lui ne aveva 35, ed è stato preso, torturato, messo in galera in Inghilterra, ai lavori forzati. Il più grande poeta della sua epoca, la penna più fine di quell'epoca, c'erano grandissimi scrittori, ecco, è stato, si chiama Oscar Wilde, è stato messo ai lavori forzati. Dopo questi lavori forzati è uscito ed è morto di stenti venendo a Napoli dopo 2 o 3 anni. Benigni, che ormai la parola amore la usa come si usa la cioccolata in crema per spalmare sul pane, la usa quando legge la Divina Commedia, la usa quando parla della moglie, la usa, questa sorta di suo improvviso innamoramento per l'amore cosmico, sembra uno di quei predicatori americani, lo mette anche nell'argomento spinoso che aveva lambito volontariamente il Festival di Sanremo, e legge questa lettera drammatica, intensa, di Oscar Wilde, incarcerato per reato di sodomia, un processo terrificante che dovette affrontare, per il giovane amante Lord Alfred Douglas, che tra l'altro se ne sbatteva alla grande di questo signore che stava in galera per colpa sua. Carissimo ragazzo, questo è per assicurarti del mio amore immortale, eterno per te. Domani sarà tutto finito. Se la prigione e il disonore saranno il mio destino, pensa che questa idea, il mio amore per te e questa convinzione ancora più divina, che tu a tua volta mi ami mi renderanno. Walter Ziti, che è in studio in quanto autore di una lettera scritta dal Festival di Sanremo, in cui dà una sua posizione rispetto il tono aspro che aveva preso questa polemica. Io trovo anche, poi, se vogliamo fare le maestrine alla penna rossa, che la citazione non è nemmeno delle più felici, perché qua si parla di un amore a senso unico innanzitutto, che non mi sembrava molto corrisposto, e poi anche Oscar Wilde, quando uscì dal carcere, tentò anche di riconciliarsi con la moglie, quindi era l'esempio forse meno adatto per dimostrare quello che vuole essere dimostrato. Ma diciamo, in realtà è un esempio adattissimo per dimostrare quello che si diceva prima, cioè la lettera è molto bella proprio perché è a fondo perduto, cioè, c'è una specie di ingenuità totale, anche in qualche modo autolesionistica, che caratterizzava appunto questo amore che tu chiamavi a senso unico di Oscar Wilde e che ne faceva la sua bellezza, come dicevo prima. Cioè, chiaramente era un amore che, vissuto così, non poteva che procurargli infelicità, però gli deve anche aver dato alcuni momenti di felicità straordinaria. Quindi in questo senso va contro a quel cartello di Povia che dicevo prima, non alla canzone di Povia. Piuttosto notavo una cosa nel pezzetto di Benigni che avete mandato, che già mi aveva colpito quando l'avevo sentito in diretta, che a un certo punto lui dice: quello che caratterizza gli omosessuali è l'amore, non il piacere, perché il piacere ce l'abbiamo anche noi, si intende eterosessuali, che è quasi una posizione platonica, cioè come se l'amore eterosessuale fosse appunto qualcosa di medico, di legato appunto alla procreazione, eccetera eccetera, invece l'erotismo più raffinato, appunto più legato all'assoluto, al cielo, eccetera eccetera, fosse quello omosessuale. Quindi ci noti un senso di invidia di Benigni di questa condizione felice? No, noto semplicemente che riprende la posizione dell'antica Grecia, insomma, che riprende la posizione platonica. È singolare che se ne possa parlare soltanto in termini di citazioni, non in termini di attualità. Sentiamo qualcuno del pubblico che stanno chiamando, se no non diamo spazio al pubblico. Antonio, buongiorno. Sono Antonio, chiamo da Bari. Scusi, l'abbiamo fatta stare in ascolto per un po' di tempo. Non ci sono problemi, mi avete fatto godere più di quanto volevo godere con il vostro adesso dialogo. Attento a fare queste dichiarazioni in diretta, perché sennò pensano sì, chissà quale... In che senso? Io sono un omosessuale, non mi vergogno. Vabbè, lo no. so 62 anni. Non è un reato, eh. E grazie a Fellini, che ho conosciuto nel 64... mi sono affermato in questa situazione da gay. È inutile che abbiamo combattuto per una vita per avere i nostri veri consensi dell'omosessualità. Oggi parlare di Povia, che è uno scrittore, un cantante, un paroliere, che fa una canzone, non possiamo creare tutto questo sistema inerente a una situazione che oramai non esiste più. Chi è gay faccia il gay, chi è eterosessuale faccia l'eterosessuale, e così vissero felici e contenti. Sì, ma è un po' più sottile, lei giustamente. Ciò che viene da una parte impugnato come possibilità, o perlomeno posto sul piatto della discussione da Walter Ziti, è un po' diverso. È che una persona possa avere dei momenti di entrata e uscita da questa condizione senza dover per forza sentirsi un elemento patologico, un personaggio da doversi curare. Ecco, come se lei un giorno... Sì, no, capito, considerare una posizione assoluta, inattaccabile, senza oscillazioni, anche quella omosessuale. Può sempre capitare di innamorarsi di una donna, no? Sì, ma questo può anche succedere, come è successo a me, che mi sono sposato, però poi ho abbandonato la compagna perché avevo dei sistemi diversi di vita. D'accordo. Ma con tutto ciò non dobbiamo dare nessuna colpa a questi artisti che si dedicano alle nostre cose personali, però senza dare danno a nessuno. Allora dico io, se stiamo così bene tutti quanti, perché ci dobbiamo rovinare la vita ancora parlando e straparlando, peccandoci di peccati che non esistono? Ognuno sceglie la propria vita. Beh, si vede che, Antonio, evidentemente non tutti stanno bene nella stessa maniera. Noi invidiamo il suo star bene, ma ci saranno altre persone che sentono in maniera più problematica comunque alcuni loro modi d'essere. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Allora io vorrei, siccome sono state fatte delle categorie gay, eterosessuali, c'è quella più importante secondo me, la categoria dei bisex. e probabilmente certo. Anche questo Luca di Povia non è un gay puro, è un bisex, come ce ne tantissimi secondo me, forse i più tanti. Ecco, Walter Zitti, questo è un altro argomento sì. Di quelli che sembrano intoccabili. Ma io credo anch'io che la bisessualità viene esclusa come possibilità perché si dice o uno o l'altro, no, sembra quasi un'incertezza. Credo che il signore invece abbia proprio ragione, cioè anch'io penso che forse la categoria più interessante da questo insomma in questo momento storico sia proprio la categoria della bisessualità, non che non sia mai esistita, probabilmente è esistita da sempre, solo che appunto adesso comincia ad avere invece una visibilità, cioè molte persone, anche non particolarmente, come dire, corazzate culturalmente, eccetera, eccetera, quindi non passano attraverso citazioni culturali, passano attraverso la vita. Però insomma li vedo che adesso accettano tranquillamente che nella loro vita ci siano state delle parentesi rivolte verso il sesso opposto e la cosa comincia a essere anche abbastanza sdoganata, cioè mentre... sì, però questo è proprio quello che negano diciamo i portatori del pensiero mm-hmm. gay organizzato, che possa essere una condizione di transito. Dice, non è un transito, o lo sei o non lo sei, se lo sei illudi te stesso. Io questo l'ho pensato a lungo, cioè anch'io per molti anni ho pensato che quelli che si dichiaravano bisessuali fossero semplicemente degli omosessuali mascherati, dei cripto gay nascosti, sì, dei velati come si dice, o qualcuno che si sposava semplicemente per avere, come dire, una rassicurazione sociale, cose di questo genere, una donna dello schermo. Sì, alcuni esempi che invece mi è capitato negli ultimi anni, anch'io ho 62 anni come signore che ha chiamato prima, di vedere, mi hanno fatto un po' passare la cosa, nel senso che ho visto delle persone davvero molto felici nel vivere dei propri rapporti omosessuali e contemporaneamente però che gli brillavano gli occhi quando incontravano una donna fatta in un certo modo e cominciavano a fare la ruota, diciamo in un modo anche abbastanza macista, eccetera, senza nessuna ipocrisia né in un caso né nell'altro. Mi stanno scrivendo vari ascoltatori su Facebook, raccontano loro storie, anche molti ammiratori di Walter Zitti quanto scrittore, romanziere, Marcello in particolare dice un saluto al grande Walter Zitti, il suo libro Troppi Paradisi è stato illuminante per capire la TV, sì, perché se ci fosse stato bisogno di capire alcuni meccanismi all'interno della televisione che vuole dare di sé sempre un'immagine al di sopra delle parti, in realtà quel libro molto interessante, molto poco valutato, del cui si è letto pochissima critica. Questo dimostra ancor più che parlare con serenità di certe scelte, di certi argomenti, sembra molto più difficile quanto sembri oggi facile seguendo le linee della libera discussione. Cioè non si può parlare di tutto con la medesima serenità. Visto che l'argomento prende spunto da un evento che è scritto nella nostra recente storia patria, andiamo avanti nella lettura, come fosse una chiave simbolica che noi cerchiamo di interpretare, di quella famosa serata di Sanremo. Benigni legge la lettera di Oscar Wilde al suo amante mentre è imprigionato. Immediatamente dopo, dal pubblico, si alza Franco Grillini, a cui dà il microfono Bonolis, perché deve dire naturalmente la sua. Durante l'interruzione pubblicitaria, perché questa canzone ha generato molte polemiche, con grande signorilità, devo dire, il dottor Grillini dell'Arcigay è venuto a chiedermi la parola. Io mi auguro, gliela do con la fiducia di un uomo verso un altro uomo. Io volevo dire semplicemente questo. Questa è una canzone che ha creato molti problemi, ha fatto arrabbiare il movimento, la mia associazione, l'Arcigay. Dopo l'intervento di Benigni io non ho molto da aggiungere. Benigni ha detto tutto. Semplicemente volevo leggere a voi, a Povia che magari ha elementi per riflettere, e anche a Bonolis questo messaggino che mi è arrivato da un grande amico durante l'esibizione di Benigni, dopo Benigni. E quindi prende il telefonino in mano e anche lui, usando un altro supporto di pensiero, di letteratura, quasi a coronamento, a compensazione o a supporto di quello che aveva detto poc'anzi Benigni su Oscar Wilde, una lettera cartacea scritta a un amico, legge un messaggino. Caro Franco, ho visto Benigni e ho pianto nella mia solitudine pensando al mio compagno scomparso da poco. Avrei voluto abbracciarlo fortemente. Grazie Benigni e grazie a te, Franco. Mario Pozzato, da Milano. Mario è stato insieme al suo compagno per 33 anni, sono state due persone felici e io gli ho risposto, non ti preoccupare Mario, perché quando si è tanto amato, il nostro amato non muore mai, vive per sempre nel nostro cuore. Povia impara cos'è la felicità degli omosessuali. Credo che, grazie, credo che Povia conosca appieno la felicità e la dignità di tutti. E credo che questa canzone, per favore. Walter Zitti, perché secondo te la platea di Sanremo, che non ha mai reazioni di questo tipo, si è messa a fischiare come i logionisti della Scala? Intanto non ho capito chi fischiava, non si è capito che cosa fischiavano in effetti, perché mi sembrava che fosse tutto talmente pacifico, non capisco che cosa. Forse hanno fischiato l'idea della felicità degli omosessuali, in questo caso allora avrebbe ragione Grillini, mi metto anch'io sotto le sue bandiere, assolutamente, però mi sembra troppo strano, non lo so che cosa hanno fischiato. È singolare poi questa cosa, l'irrazionalità totale. Sentiamo qualcuno dei nostri ascoltatori. Francesca, è in linea? Sì, sono in linea, mi sente? Sì, sì, prego. Sì, la sto sentendo, certo. Io voglio portare la mia esperienza personale, che è stata quella di una relazione eterosessuale, di una convivenza, e a un certo punto il mio compagno mi ha confidato un tradimento con un uomo, con un ragazzo di cui mi diceva di essersi preso molto, ma che comunque io rimanevo l'amore della sua vita, che era stata una meteora, come una cattedrale in un deserto, no? Come di un chi lo sa, poi lui. Ma il deserto era lei in questo caso, Francesca? Probabilmente io ero il deserto e quella era una. Sì, ma la cattedrale nel deserto è sempre un termine negativo, è una cosa inutile, superflua, così ci hanno fatto una cattedrale nel deserto. Sì, ma io sono stata malissima, non sono. Lui mi ha detto: io speravo che tu accettassi, capissi, dato che pensavo fosse una donna dalle larghe vedute, aperta, speravo che tu accettassi, anzi, che magari ti in qualche modo, non lo so, ti eccitasse il fatto che io ho avuto un'esperienza che poi mi ha detto. Invece lei non si è sentita molto eccitata, mi sembra di capire, da questa storia. No, lui mi ha detto che poi non è stata neanche un'esperienza completa, nel senso che c'è stata questo. Così, questo innamoramento. Vabbè, non è che si misura in centimetri di conquista, c'è stato. Infatti, ma è una cosa che mi ha fatto stare malissimo e la nostra relazione poi è andata avanti ancora. E com'è finita poi? Per qualche anno. È andata avanti per qualche anno, ma perché io non so. Sì, ma se è andata avanti per qualche anno, io non voglio fare l'analista delle relazioni altrui perché è un mestieraccio, ma non mi pare poi il motivo della fine sia stata questa storiella che le hai raccontato, perché per qualche anno si elabora qualsiasi lutto in una relazione. Sì, sì, però. Sì, ma non è che può essere che gliel'ha raccontato veramente, voleva attizzarla un po' con una cosa strana, non lo so. No, non credo proprio. Io ho iniziato a vederlo sotto un altro aspetto. Forse voleva fare anche, non so, una cosa divertente, non lo so esattamente. Comunque, con questo lei dice che lei vede che esiste questa possibilità comunque di uscita e rientrata nel seminato, ecco, una cosa del genere. Ma questa definizione della cattedrale nel deserto, chissà se questi uomini che escono e rientrano soltanto per salvare una facciata e in realtà veramente dentro non hanno capito neanche loro, e io gli ho chiesto di andare in analisi, di andare a parlarne con qualcuno, ma sì. Dalla padella alla brace, signora. Senta, le posso chiedere una cosa, signora, mi scusi. Così mi interessava di capire se dopo questo episodio che il suo fidanzato le ha raccontato, diciamo nei suoi comportamenti con lei, lei ha notato che effettivamente fosse proprio molto cambiato rispetto a prima, o i suoi comportamenti restavano più o meno quelli di prima, diciamo, di questo episodio? Ma inizialmente c'è stato un periodo di come interruzione, io ho cominciato d'accordo a dormire in un'altra stanza per ma dopo mesi, diciamo non quando, ci siamo neanche toccati. Se, quando vi siete rimessi insieme? E dopo ci siamo rimessi insieme, ma quello che ci teneva uniti era un bene profondo che c'era già da tanti anni. Poi i nostri rapporti sessuali comunque sono diventati fratelli praticamente. Quindi non era stato semplicemente un episodio, evidentemente era stato qualcosa di un po' più profondo per lui. Non lo so, adesso ci siamo lasciati, lui sta con un'altra donna, è felice e quello è stata. Definisce una meteora nella sua vita. E può essere, io non lo so, forse io non ci ho creduto, può essere che uno abbia voglia di fare un'esperienza a un certo punto e poi si renda conto che non è il suo... Quindi in realtà curiosamente questo episodio è stato scatenato... This is not my cup of tea, l'ho provato ma rientro, mm-hmm. e te lo dico, e questa cosa è quella che mi ha fatto più incavolare. Sì, poteva starsene zitto. Poteva, perché se mi avesse detto che mi tradiva con una donna, sarei stata più felice, mm-hmm. Felice, perché questo non mi ha fatto più sentire donna. Si ha come l'impressione che l'episodio sia stato scatenante nel decidere del vostro rapporto, ma non invece nel decidere l'eterosessualità del suo partner, che invece la sta vivendo tranquillamente ancora. Lui è tranquillo, certo. Sono io che sono stata peggio di tutti. Mm-hmm. Vabbè, se ne faccio una ragione, Francesca, la vita penso vada avanti. Abbiamo al telefono adesso Mario Pozzatto, ci ha sentito alla radio, che è la persona che ha mandato l'SMS a Grillini. Pozzatto, buongiorno. Pronto? Ecco, sì, ecco, ci siamo. Lei è la persona che mandò quell'SMS a Grillini la notte di Sanremo? Sì. Lo mandò in quella percezione, sì, temporale che abbiamo, allora, avuto? Io ero qui da solo, guardavo la trasmissione, ho sentito la lettera di Grillini, mi sono commosso e anche lo conosco tanto tempo e ho pensato di mandare un SMS, ma io pensavo che fosse il telefono spento, capito? Poi invece lui mi ha risposto, le parole che ha detto poi lui, che una persona si porta nel cuore dopo morte, così sono parole toccanti, così. Ma guarda, devo fare leggere l'SMS a Un atto di contrizione. Guardi, nella mia infinita e detestabile malizia, io quando parlai lunedì di Sanremo, dissi: guarda che bella regia si è preparato Grillini. Da una parte c'è Oscar Wilde eletto da Benigni e lui si è preparato l'SMS del suo amico. Pensavo ci fosse una regia dietro. Se lei mi conferma che è un atto spontaneo. Stata una cosa spontanea. Io pensavo fosse spento, ho detto lo leggerà domani, basta. Invece poi io sono andato a letto. E mi telefona mia amica: ma guarda che Grillini ha letto il tuo messaggio. E allora dopo un mio caro amico mi ha registrato lui, perché anche lui ha registrato tutta la trasmissione, mi ha dato il filmato. Senta, lei della canzone di Povia cosa ne pensa? Così chiudiamo anche questo cerchio. Allora, quel ragazzo lì non era gay, perché quel ragazzo lì ha passato un momento della sua vita nella famiglia, che è un po' trasandata la sua famiglia, e ha cercato rifugio di gay, nel senso ha avuto affetto dai gay, tutto il... quando lui col tempo dopo è maturato la sua sessualità, che non era gay, e si è sposato con una donna, e non è che dica era gay, non era gay, perché se fosse stato gay rimaneva gay, inutile. Guardi, io sì, ma se lei lo dice con tale certezza non ho difficoltà, mentre dubbio quello che dice, però dico a Walter Zitti, visto che dobbiamo chiudere la trasmissione, a me sembra un po' quel meraviglioso film di Kurosawa, Rashomon, c'è un delitto e tutti danno la sua versione, questo signore già dalla sua versione, questo povero Luca, esistente o non esistente, ferroviere, amico, alter ego di Povia, non si sa bene cosa sia, comunque ha già avuto almeno 4-5 attribuzioni di condotta, quindi siamo felici che nella varietà probabilmente avrà una grande possibilità di scelta. Beh, effettivamente mi colpisce questa idea che uno nasca gay oppure nasca eterosessuale, perché si contrappone all'idea che di solito è quella più diffusa, di pensare che invece ci possono essere dei momenti anche a secondo dell'educazione, della vita, eccetera eccetera. Io sono più per l'idea invece che ci siano appunto dei transiti possibili, però ovviamente so che ci sono anche delle ipotesi contrarie, pensando che sia una cosa la cosa che più mi fa felice, che il fatto che ci siano delle ipotesi, uno abbia la libertà e la serenità e la franchezza di poter vagliare e discutere tutte le ipotesi, pur restando, volendo, della sua convinzione. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.